Capitolo 48. 5 o 6 giorni dopo, il signor Lawrence venne a trovarci e non appena restammo da soli, cosa che feci in modo di ottenere presto, portandolo fuori a vedere il mio grano, mi mostrò una nuova lettera da parte della sorella. Lasciò che la leggessi, probabilmente pensando che mi avrebbe fatto piacere. Circa la domanda che le avevo fatto arrivare, l'unica risposta era questa: il signor Markham può rivelare sul mio conto quel che ritiene necessario, ma non vorrei che si dicesse troppo sull'argomento. Mi auguro che lui stia bene. Digli che non deve pensare a me. Posso condividere con te altri stralci della lettera, dato che mi è stato permesso di tenere anche questa, credo, come antidoto alle mie speranze e alle mie illusioni. La sua salute è molto migliorata, ma lui è depresso, sia per effetto della malattia, sia per effetto della moderazione che gli è stata imposta, davvero lontana da quelle che erano le sue abitudini fino a poco tempo fa. È impressionante vedere quanto la sua condotta indegna abbia indebolito la sua costituzione, una volta così robusta, e tutto il suo sistema interno. Secondo quanto dice il dottore, è ormai fuori pericolo, a patto che continui a osservare questo regime. Può consumare di tanto in tanto un cordiale per tenersi su, ma diluito e con moderazione. Regole che sto faticando a fargli accettare. Inizialmente era così terrorizzato di poter morire da mostrarsi più docile, ma appena i dolori si sono fatti meno acuti e il pericolo si è allontanato, è diventato più nervoso. Gli è tornato anche l'appetito, e anche in questo la sua inclinazione all'autoindulgenza non è un ostacolo da poco. Io lo tengo d'occhio, se posso lo rimprovero, cosa che mi attira i più terribili insulti per la mia severità. Certe volte riesce ad agire di nascosto. Certe altre invece si oppone apertamente ai miei suggerimenti. Del resto, si è talmente arreso ormai alle mie cure che non sopporta quando non gli sono accanto. Per questo motivo sono costretta a essere più severa con lui, altrimenti mi renderebbe completamente schiava e trovo che sarebbe imperdonabile rinunciare a tutto il resto per lui. È necessario che io mi occupi della servitù e del piccolo Arthur, nonché della mia stessa salute. E se mi occupassi esclusivamente di lui, finirei per trascurare tutto questo. Solitamente la notte non mi occupo di lui. Ritengo infatti che l'infermiera, che lo fa di mestiere, sia più qualificata di me per certi compiti. Tuttavia, è raro che io riesca a riposare ininterrottamente la notte, poiché il malato non esita a chiamarmi a qualsiasi ora, se ritiene di aver bisogno della mia presenza. Teme la mia disapprovazione e ogni volta che mi spazientisce con richieste irragionevoli e lagne e rimbrotti, quella successiva sono certa di trovarlo sottomesso e incline a mortificarsi. Lo perdono perché so che dipende dalla malattia e dai suoi effetti sui nervi. Quel che proprio non riesco a sopportare invece sono gli slanci d'affetto ai quali non do credito e che non posso assolutamente ricambiare. Non lo odio, certo. Le sue pene e il mio prendermi cura di lui con tanto impegno gli hanno dato diritto alle mie attenzioni e anche al mio affetto, ma vorrei che fosse più calmo e sincero e che si accontentasse che le cose restino così come sono. Invece, più cerca di adularmi e più io mi ritraggo da lui e dal futuro. Cosa farai, Helen, quando mi sarò rimesso del tutto? Mi ha domandato stamattina. Fuggirai di nuovo? Questo dipende solo dal modo in cui ti comporterai. Sarò bravissimo. Se tuttavia riterrò di dovermene andare di nuovo, Arthur, non fuggirò, come dici, poiché ho il tuo permesso scritto di potermene andare quando voglio, portando con me il bambino. Non te ne darò motivo, e a questo ha fatto seguire una serie di dichiarazioni che ho interrotto bruscamente. Non mi perdoni, quindi? Ti ho già perdonato, eppure so che non puoi più amarmi come una volta, e se lo facessi, me ne dispiacerei perché io invece non potrei ricambiarti. Lasciamo stare quest'argomento, non parliamone più. Puoi giudicare da solo quel che farò, basandoti su quel che ho già fatto finora, sempre che questo sia compatibile con il dovere ben più importante che ho nei confronti di mio figlio. Più importante perché egli non ha mai perso il diritto alle mie attenzioni e soprattutto perché spero di riuscire a fare del bene a lui più di quanto potrei mai fare a te. Se desideri guadagnare il mio favore, comunque sappi che sono le azioni e non le parole a conquistare il mio affetto e la mia stima. Ha risposto con una breve alzata di spalle e una smorfia. Pover'uomo, che trova più semplice usare le parole che metterle in azione. Poi fece un sospiro di autocommiserazione, forse rimpiangendo i tempi in cui era un uomo tanto amato e corteggiato, e non, come ora, lasciato alle cure di una donna così severa e fredda, nonché costretto a mostrarsi anche riconoscente per la sua generosità. Un vero peccato, non trovi? Gli domandai. Non so se avessi effettivamente indovinato i suoi pensieri, ma di certo, qualsiasi cosa avesse in mente concordava con il mio commento, tant'è che mi rispose subito. Non possiamo farci niente, sorridendo tristemente per la mia intuizione. Ho incontrato Esther Hargrave 2 volte, è una fanciulla incantevole, ma ho trovato che la sua freschezza è rovinata e la sua dolcezza quasi logorata a causa delle vessazioni incessanti di sua madre per quel corteggiatore che aveva respinto. Non certo violente, ma puntuali e stancanti come uno sgocciolio. Sembra che quella donna sia determinata a rendere la vita di sua figlia un inferno e a farla sentire un peso se non cede alle sue richieste. Mamma non perde mai l'occasione di farmi sentire un peso per la famiglia, oltre che la figlia più ingrata ed egoista che si sia mai vista. Anche Walter si dimostra altrettanto freddo e poco comprensivo, sdegnoso a volte, come se mi detestasse. Se avessi saputo prima che mi aspettavano queste conseguenze, di sicuro avrei ceduto, ma ormai mi impunterò per pura ostinazione. Una brutta motivazione, ma per un buon obiettivo, le ho detto. Sebbene sono certa che abbiate anche altre motivazioni più nobili, ad esempio la vostra perseveranza, che vi consiglio di tenere sempre ben presenti. Ah, potete starne certa, lo farò. Ogni tanto dico a mia madre che me ne scapperò di casa, mantenendomi da sola, se non la smette di torturarmi in questo modo, e in effetti riesco a spaventarla un po', del resto sarei pronta a farlo se non mi lasciano in pace. Cercate di restar calma e abbiate pazienza, l'ho incoraggiata io. Verranno tempi migliori. Poverina, quanto mi piacerebbe se qualcuno degno di lei la sottraesse a tutto questo. Non trovi, Frederick? La lettura di questa lettera mi portò a considerare con sgomento il futuro che attendeva Helen e quello che attendeva me, ma mi offrì almeno la consolazione di poter liberare il suo nome dalle maldicenze. I Millward e i Wilson avrebbero visto il sole farsi strada tra le nuvole e sarebbero rimasti abbagliati e accecati dalla sua forte luce, e anche i miei cari, i cui sospetti avevano così tanto avvelenato la mia anima, avrebbero saputo finalmente la verità. Non dovevo far altro che lasciar cadere il mio seme nella terra. Da lì sarebbe nata una pianta forte e rigogliosa. Sarebbe bastato che dicessi 2 parole a mia madre e a mia sorella perché la notizia arrivasse alle orecchie di tutto il paese, senza che mi sforzassi oltre. Quando le dissi quel che mi pareva sufficiente, fingendo di non sapere altro, Rose era fuori di sé dalla gioia. Si infilò la cuffietta e andò di corsa a dare la buona notizia ai Millward e ai Wilson. Certo, la notizia sarebbe rimasta buona solo per lei e per Mary Millward, una fanciulla davvero seria e posata, come aveva presto notato e stimato la buona signora Graham, e che peraltro aveva saputo cogliere e apprezzare da subito la vera natura della signora meglio di chiunque altro. Dato che potrei non avere altre occasioni in futuro per parlare ancora di lei, voglio dirti subito che in quel momento, anche se nessuno oltre a loro due lo sapeva, era fidanzata con Richard Wilson, il quale all'epoca si trovava a Cambridge, dove la buona condotta e i meriti lo accompagnarono fino al termine degli studi, consentendogli di guadagnare il massimo degli onori e una più che meritata reputazione. A tempo debito iniziò quindi ad affiancare nelle sue funzioni il signor Millward, il quale dovette riconoscere che gli impegni della sua parrocchia iniziavano a diventare troppi per la sua energia in declino. Proprio come i due innamorati avevano pazientemente e silenziosamente atteso per anni. Di lì a poco si unirono in matrimonio, quindi, con gran stupore di molti in paese, che da tempo ormai li consideravano destinati al celibato, lui perché troppo riservato e studioso per trovare il coraggio di cercarsi una moglie, e lei perché troppo semplice e poco attraente per trovare un marito. Vissero in casa del parroco, dove la signora si divideva tra il padre, il marito e i parrocchiani più poveri, oltre a occuparsi della loro famiglia, via via in espansione. Adesso che il reverendo Michael Millward ha raggiunto i suoi padri, dopo tanti anni e con molti onori, alla parrocchia di Lindenhope gli è succeduto il reverendo Richard Wilson. per la gioia dei suoi abitanti, che già da tempo apprezzavano i suoi meriti e quelli della sua amabile compagna. Sarai forse curioso di sapere cosa ne è stato della sorella della signora Wilson? Ebbene, come magari avrai saputo da altre voci, 12 o 13 anni fa ha finalmente liberato quella coppia della sua presenza, sposando un ricco commerciante. Personalmente non lo invidio affatto e credo anzi che gli stia facendo condurre una vita piuttosto scomoda, ma per fortuna lui sembra sia troppo sciocco per rendersene conto. Io non la vedo da molti anni ormai, ma sono sicuro che non avrà dimenticato né perdonato il suo ex corteggiatore, né la bella signora che con la sua nobile superiorità gli ha fatto presto capire quanto fosse assurda quella giovanile infatuazione. La sorella di Richard Wilson, invece, non solo non è più riuscita a catturarsi i favori di Lawrence, ma non ha neppure trovato un marito abbastanza ricco da corrispondere all'idea di come dovesse essere il suo sposo ideale, ed è quindi ancora nubile. Dopo la morte della madre, se ne andò da Rycote Farm, trovando insopportabile la rozzezza di suo fratello Robert e di sua moglie, e non volendo in alcun modo che qualcuno la mettesse in relazione con gente tanto semplice. Si trasferì in campagna, dove ha condotto e ancora conduce una vita tanto signorile quanto meschina, caratterizzata per lo più dalla freddezza, poiché non fa del bene agli altri né a se stessa. Trascorre le giornate ricamando e spettegolando, riempiendosi la bocca delle gesta di suo fratello reverendo e della cognata, moglie del reverendo, ma mai di quelle del fratello agricoltore o di sua moglie. Frequentando quante più persone possibile, senza spender troppo e senza mai amare nessuno né essere amata. Insomma, una fredda, boriosa, acida, maliziosa e pettegola zitella. Capitolo 49. Il signor Lawrence si era ormai quasi del tutto rimesso, ma le mie visite a Woodford continuavano regolari, anche se rispetto a prima mi trattenevo meno a lungo. Parlavamo raramente della signora Huntington, ma non c'era mai una volta in cui non la nominassimo almeno, perché andando a trovarlo speravo sempre di sentire qualcosa su di lei. Aspettavo, parlando d'altro, che fosse lui a tirar fuori l'argomento, e se non lo faceva, tentavo una domanda casuale. Avete avuto notizie da parte di vostra sorella di recente? Se mi rispondeva di no, il discorso finiva lì. Se invece mi rispondeva di sì, gli chiedevo anche: e come sta? Senza informarmi di come stesse suo marito, sebbene morissi dalla voglia di saperlo. Non ero abbastanza falso per fingere di desiderare che guarisse, ma neppure tanto sfacciato da esprimere il desiderio opposto. Ma davvero lo desideravo? Ho paura di dovermi dichiarare colpevole in questo. Ma dal momento che hai ascoltato la mia confessione, dovrai sentire anche le mie ragioni, le giustificazioni che mi davo per tacitare la mia coscienza sporca. Innanzitutto, la sua stessa vita era causa di dolore per altre persone e non era di alcun giovamento per lui. Sì, speravo che finisse, quindi, ma non avrei accelerato il processo, neppure se fosse stato in mio potere farlo, alzando un dito, o se un diavolo mi avesse suggerito che sarebbe stato sufficiente desiderarlo intensamente, a meno di non poter chiedere un cambio, salvando dalla tomba qualcuno la cui vita era benefica per i suoi simili e la cui morte sarebbe stata pianta da chi gliele voleva bene. Quindi, che male c'era a sperare che tra le moltissime anime che di certo sarebbero state richiamate entro la fine dell'anno, ci fosse anche quella di questo miserabile mortale? Secondo me nessuno. E quindi continuai a sperare che il cielo potesse decidere di spostarlo in un mondo migliore, o quantomeno toglierlo da questo, anche perché, se non fosse stato all'altezza della chiamata, allora, dopo i moniti della malattia e avendo avuto un tale angelo accanto, di sicuro non lo sarebbe mai stato più. Anzi, riacquistando la salute, sarebbe tornato allegramente alle sue peggiori trasgressioni. Sentendosi meglio e ormai abituato alla presenza generosa della moglie, si sarebbe nuovamente indurito, trovandosi nel cuore una rinnovata brutalità e insensibilità ai tentativi di redenzione che gli offriva lei. Tuttavia, Dio avrebbe deciso da sé. Io però non potevo evitare di sentirmi ansioso di conoscere quanto egli andava predisponendo, sapendo che, mettendo da parte me stesso, Per quanto a Helen stesse a cuore la salute del marito e per quanto potesse commiserarne la sorte, finché fosse rimasto in vita, lei sarebbe stata infelice. Dopo 2 settimane, in cui la mia domanda riceveva puntualmente un no come risposta, arrivò finalmente un sì che mi fornì l'occasione di porre la seconda domanda. Lawrence capì perfettamente cosa mi angosciasse e apprezzò la mia discrezione. Inizialmente temevo che mi avrebbe torturato con le sue reticenze, evitando di dirmi proprio quello che volevo sapere e costringendomi a tirarglielo fuori un poco alla volta senza troppi giri di parole. Di certo te lo saresti meritato, ti starai dicendo. Lui, invece, fu più compassionevole e di lì a poco mi mise in mano la lettera di sua sorella che io lessi in silenzio e che restituii senza ulteriori commenti. La cosa gli piacque al punto che da allora in poi seguì sempre questo metodo, di farmi subito leggere le lettere se ne aveva, appena chiedevo sue notizie. Era più facile che riferirmene il contenuto a voce e la riservatezza con cui ricevevo tali confidenze lo impressionava al punto da incoraggiarlo a non smettere. Divoravo quelle preziose lettere e non gliele ridavo finché non le avevo memorizzate a dovere, tanto che appena tornavo a casa ne trascrivevo sul mio diario le parti più salienti, accanto a quel che di più importante mi era accaduto quel giorno. La prima di queste lettere recava la notizia che la salute del signor Huntington era molto peggiorata, in particolare a causa della sua indulgenza nel bere quegli alcolici stimolanti. Inutilmente lei aveva protestato e inutilmente continuava a mescolare il vino con l'acqua, poiché egli considerava quegli ammonimenti solo un fastidio e la sua ingerenza un'offesa, tanto che una volta, vedendo che egli aveva diluito il porto con l'acqua, aveva lanciato la bottiglia dalla finestra, urlando che non si sarebbe lasciato controllare come un bambino e gridando al cameriere che gli portasse subito una bottiglia del vino migliore che trovava in cantina, pena un licenziamento immediato. Poi aveva detto che se l'avessero lasciato fare di testa sua sarebbe già guarito da tempo e che lei voleva che restasse debole per poterlo tenere meglio in pugno. Ma lui, che diamine, non avrebbe tollerato ulteriori imbrogli. Aveva preso il bicchiere in una mano e la bottiglia nell'altra e non si era più fermato finché non l'aveva vuotata tutta. Questa leggerezza, come lei la definiva molto delicatamente, ebbe effetti immediati e allarmanti. Ecco perché, diceva, aveva tardato a scrivere al fratello. I sintomi precedenti erano ricomparsi con maggior violenza. La ferita si era riaperta e aveva un'infiammazione interna che gli sarebbe stata fatale se non si fosse curata in fretta. In tutto questo, l'umore del malato, credo, era diventato insopportabile, per quanto la sua dolce infermiera non se ne lamentasse. Tuttavia aveva dovuto affidare il piccolo alle cure di Esther Hargrave, poiché le era richiesta una presenza pressoché costante nella stanza del malato, e anche se il figlio l'aveva supplicata di farlo restare con lei, promettendo di aiutarla a curare il papà, e anche se lei era certa che sarebbe stato davvero buono e bravo, non voleva impressionare i suoi sentimenti tanto giovani e delicati, esponendoli a tanta sofferenza, permettendogli di assistere alle pene del padre e udire le parole volgari con cui si lamentava. Egli, scriveva nella lettera, rimpiange il gesto che ha provocato questa ricaduta, ma ovviamente getta la colpa su di me. Dice che se ne avessi parlato con lui in modo razionale, invece di trattarlo come un bambino, non sarebbe successo. Qualsiasi uomo, dice, perderebbe la testa a venire trattato come uno stupido o come un bambino, sentendosi costretto ad affermare la propria indipendenza, anche a costo di sacrificare il proprio interesse. Non ricorda, però, quante volte ho parlato con lui razionalmente, tanto da fargli perdere la pazienza. Si accorge di essere in pericolo, ma non riesce a vedere la faccenda sotto la giusta luce. Qualche sera fa ero da lui e gli avevo appena portato qualcosa da bere per togliergli la sete bruciante che aveva ed ha osservato sarcastico: "Oh, ma come sei premurosa adesso! Faresti qualsiasi cosa per me adesso, non è vero? Sai bene che sono disposta a fare qualsiasi cosa ti offra un po' di sollievo." Gli ho risposto meravigliata dal suo tono: "Certo, povero angelo immacolato, adesso sì, ma quando ti sarai assicurata il tuo posto in paradiso, mentre io marcirò tra le fiamme dell'inferno, non farai nulla per servirmi. Te ne starai lì a guardarmi compiaciuta e non immergerai neppure un dito nell'acqua per togliermi la sete. Se così sarà, sarà solo per via del grande golfo che non potrò attraversare, e potrei restare a guardarti compiaciuta solo se sapessi che in quel modo ti starai purificando dai peccati, per poi poter godere della felicità che provo io. Ma hai proprio deciso che io non debba incontrarti in cielo? Non saprei che fare lì. Io non lo so, ma senz'altro le tue inclinazioni e i tuoi impulsi si dovrebbero trasformare profondamente perché tu possa trovare gioia lassù. Ma davvero preferisci lasciarti cadere senza nemmeno provare a resistere in quel tormento che hai descritto? Ma sono tutte stupidaggini, ha risposto sprezzante. Ma ne sei certo, Arthur, ne sei davvero certo. Pensaci bene, perché se dovessi accorgerti che non è così e fosse troppo tardi per rimediare, sarebbe imbarazzante, sono d'accordo, ma ora non seccarmi più, non sto morendo, non posso e non voglio. Ha concluso con veemenza, come colto dall'improvviso terrore che potesse in effetti succedere. Helen, tu devi salvarmi! Ha esclamato poi, prendendomi le mani e guardandomi con occhi così imploranti e disperati che il mio cuore ha sanguinato per lui e non ho potuto rispondere niente per via delle lacrime. Nella lettera successiva diceva che la malattia andava peggiorando e che la paura che quel disgraziato aveva della morte era più penosa ancora dei suoi insopportabili dolori. Non tutti gli amici, in fondo, l'avevano dimenticato. Il signor Hattersley, saputo che era in pericolo di vita, era arrivato dalla sua lontana residenza nel nord e sua moglie l'aveva accompagnato, sia per il piacere di rivedere l'amica dopo tanto tempo che per far visita a sua madre e a sua sorella. La signora Huntington si diceva contenta di aver visto Millicent e di averla trovata così bene e così felice. Sono al Grove, scriveva, ma lei viene spesso a trovarmi. Hattersley passa molto tempo al capezzale di Arthur. È un uomo più buono di quanto credessi, in fondo, e mostra di essere sinceramente affezionato al suo amico, sebbene sia più ansioso che capace di prendersene cura. Vuol tirarlo su parlandogli dei vecchi tempi e la cosa a volte in effetti è utile a distrarre il malato dai suoi più cupi pensieri, ma altre volte invece lo incupisce ancora di più, rendendolo malinconico. A quel punto Hattersley non sa più che dire e chiede timidamente di mandare a chiamare il prete. Arthur tuttavia non lo accetterebbe, sa bene di aver disprezzato gli ammonimenti del prete molte volte in passato e non gli verrebbe in mente di rivolgersi a lui proprio adesso per trovare conforto. Hattersley a volte si offre di restare con lui al posto mio, ma Arthur non vuole che io me ne vada. Che strano capriccio, quello di volermi sempre accanto. Si accentua col calare delle sue forze. Non lo lascio quasi mai, eccetto poche volte, per andare a rubare qualche ora di sonno nella stanza accanto e solo se è tranquillo. E lasciando comunque la porta aperta in modo che possa chiamarmi se ha bisogno. Ti sto scrivendo mentre sono qui con lui adesso e ho paura che questa mia distrazione lo infastidisca, nonostante mi sia interrotta spesso per accudirlo. E sia presente anche Hattersley. Quest'ultimo è arrivato a darmi il cambio perché potessi andare a farmi una corsa nel parco e godere di questa bella mattina fredda con Millicent, Esther e il piccolo Arthur che era venuto a trovarmi anche lui. Quell'offerta deve essere sembrata assurda al malato e tanto più assurdo gli sarebbe sembrato se l'avessi accettata. Gli ho quindi detto che mi sarei allontanata solo qualche minuto per andare a salutarli. Mi sono fermata a scambiare due parole con loro sul portico, godendo dell'aria fresca e tonificante, e poi, respingendo le insistenze di tutti e tre perché li accompagnassi a passeggiare in giardino, me ne sono andata e sono tornata dal malato. Nonostante fossi stata lontana solo 5 minuti, mi ha rimproverata duramente, accusandomi di trascurarlo. Il suo amico ha preso le mie difese. Ehi, Huntington, siete sin troppo severo con lei, avrà pur bisogno di dormire, mangiare e respirare un po' di aria fresca ogni tanto, altrimenti non resisterà. Guardala, è già molto sciupata. Cosa sono le sue privazioni rispetto alle mie? Ha detto lui. Non mi offri malvolentieri i tuoi servizi, Helen, vero? Se solo ti fossero utili, Arthur, darei la mia vita per salvarti. Davvero lo faresti? No, di tutto cuore. Perché pensi di essere più preparata di me ad affrontare la morte? È calato un penoso silenzio. Lui era sicuramente immerso nei più cupi pensieri, mentre io riflettevo su cosa potergli dire per tirarlo su. Hattersley, evidentemente impegnato anche lui verso lo stesso obiettivo, se ne è uscito con Huntington. Io comunque chiamerei un prete. Se il vicario non vi garba, potreste far venire il curato. Nessuno di loro potrà mai farmi del bene se non ci riesce lei, ha risposto. Poi ha cominciato a piangere e ha esclamato: Helen, se solo ti avessi ascoltata, non saremmo mai arrivati a questo punto. Se mi fossi comportato bene con te in passato, oddio, come sarebbe stato tutto diverso. Perché non mi ascolti adesso, Arthur? Gli ho detto prendendogli la mano. Ormai è tardi, ha detto tristemente. A questo è seguito un altro spasmo di dolore e un delirio, tanto che temevamo davvero che fosse arrivata la sua ora, ma la somministrazione di un oppiaceo ha placato i dolori e lui è tornato lentamente in sé, lasciandosi andare a un quieto dormiveglia. Da quel momento si è calmato e Hattersley se n'è andato sperando di trovarlo meglio quando fosse tornato il giorno successivo. Potrei anche guarire, Helen. Potrebbe essere stata solo una crisi. Che ne dici? Ha chiesto Arthur. Non volendo angosciarlo, gli ho risposto quel che di più leggero mi è venuto in mente, al tempo stesso incoraggiandolo però a prepararsi a quel che temevo più probabile. Lui però voleva sperare. Subito dopo si è addormentato, ma ora si sta di nuovo lamentando. Poi qualcosa è cambiato. Mi ha chiamato in tono molto eccitato. Credevo stesse delirando, invece no. Era solo una crisi, Helen, mi ha detto felice. Avevo un dolore insopportabile qui e adesso è scomparso. Non mi sono mai sentito così bene dal giorno dell'incidente. È scomparso, capisci? Così dicendo mi ha preso la mano e l'ha baciata al colmo della gioia. Vedendo però che non partecipavo della sua allegria, l'ha subito lasciata con sdegno, insultando la mia freddezza. Cosa gli potevo dire? Mi sono messa in ginocchio accanto a lui, gli ho preso la mano e l'ho premuta con affetto sulle labbra per la prima volta da quando ci siamo separati. Gli ho spiegato che non era l'insensibilità a trattenermi, ma la paura che la scomparsa del dolore non fosse un buon segno come lui credeva. Quindi ho fatto chiamare il dottore, che stiamo aspettando. Ti saprò dire quale sarà il suo responso. Continua a non sentire più il dolore e a sentirsi intorpidito nel punto in cui il dolore era più acuto. Ecco, le mie peggiori paure si sono avverate. È cominciata la cancrena. Il medico gli ha annunciato che non ci sono speranze. Non so descriverti il suo sgomento, né riesco a scriverti altro. La lettera successiva era ancora più penosa. Il malato stava avvicinandosi velocemente alla fine, spinto ormai sull'orlo di quell'abisso che tanto lo terrorizzava e da cui né preghiere né lacrime avrebbero potuto salvarlo. Nulla riusciva a consolarlo. I goffi tentativi di Hattersley di tirarlo su erano inutili. Il mondo aveva perso per lui qualsiasi significato. La vita non gli interessava più, né gli importava delle questioni più spicciole o dei piaceri fuggevoli. Ricordare il passato era diventata una tortura. Pensare al futuro gli metteva angoscia. Restare in silenzio significava abbandonarlo ai suoi rimpianti e ai suoi tormenti. Parlava spesso del fango eterno a cui si vedeva destinato, della lenta rovina del suo corpo che già era cominciata, del lenzuolo funebre, della bara, della tomba buia e solitaria, dell'orribile processo di decomposizione. Se tento di distrarlo da questi pensieri, scriveva la moglie, di portarlo a soffermarsi su qualcosa di più nobile, la cosa comunque non lo aiuta. Peggio ancora, mi dice, se davvero ci sarà una vita dopo la morte e un giudizio, io come lo affronterò? Insomma, non sono in grado di confortarlo. Eppure egli si affida a me con tenacia, con disperazione quasi infantile, come convinto che io possa salvarlo dal destino che tanto lo angoscia. Mi vuole vicino a sé, giorno e notte. Proprio in questo momento, mentre scrivo, mi sta tenendo la mano sinistra. Sono ore che la tiene. A volte è tranquillo, con il volto pallido rivolto verso di me, altre volte invece mi afferra con forza, con la fronte madida di sudore, al pensiero di quel che vede o crede di vedere davanti a sé. Se allontano la mano anche solo un istante, si agita moltissimo. Resta con me, Helen, mi dice. Fatti tenere la mano, che mi pare che il male non possa raggiungermi finché ci sei tu. Eppure la morte arriverà. Eccola, sta già venendo, veloce, veloce. Magari riuscissi a credere che non c'è nulla dopo. Arthur, non sforzarti di crederlo. La gioia e la gloria ti attendono dopo, se solo tu ti sforzi di raggiungerle. Ma che dici per me? ha risposto ridendo. Non saremo forse giudicati in base a ciò che abbiamo fatto con il corpo? Che senso avrebbe un'esistenza di probo se un uomo potesse viverla come meglio crede, opponendosi al volere di Dio e infine ascendere al cielo insieme a chi è migliore di lui? Se il peggiore dei peccatori potesse conquistare la stessa ricompensa di un santo semplicemente dichiarandosi pentito. Se ti pentirai, sinceramente, ma io non posso pentirmi, ho solo paura. Sei pentito del passato solo per gli effetti che ha avuto sul presente? Esattamente. E mi dispiace di averti fatto del male, Nell, perché tu sei sempre stata così buona con me. Se pensi alla bontà di Dio, allora riuscirai a dispiacerti anche di aver offeso Lui. Ma cos'è Dio? Io non posso vederlo, non lo sento, non è che un'idea. Dio è infinita saggezza, potere e bontà e amore. Ma forse è un concetto troppo vasto per la nostra finitezza umana. Se senti che la mente non riesce a contenere questa vastità, allora fissala su di lui, assunto all'alto dei cieli perfino con il suo corpo umano che risplende nella luce della divinità. Lui si è limitato a scrollare la testa finché un altro accesso di orrore l'ha travolto, e allora è tornato a stringermi forte, lamentandosi con quella disperazione così lacerante per la mia anima. Giacché so di non poterlo aiutare. Tuttavia, ho fatto il possibile per tranquillizzarlo e consolarlo. La morte è orribile, Helen. Non la sopporto, non puoi sapere com'è, perché non ce l'hai davanti. Quando sarò morto, tornerai a fare la tua vita esattamente come prima, e il mondo intero andrà avanti, come se io non fossi neppure mai esistito, ed io invece. E così dicendo, è scoppiato a piangere. Ma non devi angosciarti tanto, Arthur, gli ho detto. Presto ti seguiremo tutti quanti. Io vorrei portarti con me, adesso, ha gridato, perché tu possa difendermi. Nessun uomo potrà mai salvare un proprio fratello, né contrattare per lui con Dio, gli ho detto. Il prezzo del riscatto di un'anima è più alto, sta nel sangue di un Dio incarnato, perfetto, immacolato, che ci riscatta dall'unione con il demonio. Sarà lui a difenderti. Eppure, ho l'impressione che non mi ascolti più come prima, perché non ride delle mie parole con sprezzo come faceva, però continua a non crederci e a non sforzarsi di comprenderle meglio. Sicuramente non resisterà ancora a lungo. Soffre troppo lui e quelli che si prendono cura di lui. Non voglio angosciarti con ulteriori dettagli. Credo di aver detto già abbastanza perché tu capisca quanto ho fatto bene a tornare. Povera Helen. Come doveva sentirsi disperata, e io non avrei potuto fare nulla per aiutarla. Mi pareva anzi di esserne la causa, io, con i miei più inconfessati desideri. A sapere delle sofferenze di suo marito e delle sue, mi giudicavo severamente per aver cullato una simile speranza. Dopo 2 giorni giunse un'altra lettera. Mi venne consegnata anche questa senza altri commenti, ed eccone il contenuto. 5 dicembre. Alla fine se n'è andato. Ho passato tutta la notte al suo fianco, tenendogli la mano e osservando il modo in cui cambiava il suo volto, ascoltando il suono debole del suo respiro. Era in silenzio da molto tempo ormai e pensavo che non avrebbe più parlato quando d'un tratto ha sussurrato: "Prega per me, Helen. Prego per te ogni minuto, Arthur. Ora devi pregare tu per te stesso." Ha mosso le labbra, senza che ne uscisse alcun suono. Poi, d'un tratto, ha mutato espressione e, a giudicare dai mormorii privi di senso che ogni tanto gli sfuggivano di bocca, ho pensato che fosse incosciente. Ho liberato la mano per allontanarmi un istante a prendere una boccata d'aria, perché mi sentivo soffocare, ma egli subito ha mosso le dita, sussurrando: "Non lasciarmi!" E sono quindi rimasta al mio posto, tenendogli la mano, finché non è spirato. E poi sono svenuta, non per il dolore, ma per la stanchezza che fino a quel momento avevo contrastato. Oh, Frederick, nessuno immagina lo strazio fisico e mentale di quel moribondo. Come farò a sopportare il pensiero che la sua anima impaurita venga trascinata subito al suo eterno tormento, ho paura di impazzire. Per fortuna però spero ancora. Non solo spero che alla fine abbia trovato la strada per il pentimento e per il perdono, ma anche perché so che Dio non odia nulla di quel che ha creato, e quali e quante siano le fiamme purificatrici attraverso cui una povera anima è condannata a passare, alla fine Lui la benedirà. Seppelliremo il suo corpo nella tomba buia che tanto temeva, ma chiuderemo la bara quanto prima. Se pensi di partecipare al funerale, vieni presto. Ho bisogno di aiuto. Ellen Huntington.